in primo piano. Elezioni e referendum in primo piano su tutti i quotidiani, con l'abituale differenza di interpretazione dei risultati che caratterizza sempre il giorno dopo le elezioni. Il Tempo titola ballottaggi, doccia fredda per il PD, con un articolo di Roberto Arditti che evidenzia come ci sia un cambio di colore in provincia di Milano, al comune di Prato e nelle province di Frosinone, Venezia e Savona. Il Riformista titola Papi salvo per un pelo, forte astensionismo, il centrosinistra riprende fiato. E anche sul Riformista si evidenzia quel flop del referendum a cui faceva riferimento Alessandro Milan pochi minuti fa. Di nuovo La Stampa equilibrata, il PDL avanza ma il PD resiste, al centrodestra vanno Milano, Venezia e Savona, conquistata anche Prato, mentre il centrosinistra vince a Torino e tiene i comuni di Padova, Bologna, Firenze e Bari. L'Unità titola C'è un'altra Italia e l'approfondimento su Il Messaggero di Paolo Pombeni evidenzia il fatto che anche queste elezioni, dopo le elezioni europee, sembrano dare al Premier un segnale forte, quello della necessità di passare ai fatti, di prendere misure che diano conto della gravità della crisi in cui il Paese e l'economia internazionale si trova, per evitare una disaffezione che, ad avviso di Pombeni, è gran parte spiegazione di un risultato meno positivo di quanto il PDL non si attendesse prima di queste due tornate elettorali. Massimo Giannini e Repubblica titolano Il Cavaliere in frenata, dicendo che finisce il sogno di un'Italia monocolore. E su La Stampa Luigi La Spina invece trae una lezione per il Partito Democratico, dicendo sostanzialmente che è nei luoghi e nelle città nelle quali sono stati presentati candidati pragmatici e orientati al fare che il Partito Democratico è riuscito a tenere anche al nord. Lucida come sempre l'analisi di Massimo Franco sul Corriere della Sera. Evidenzia Franco il ruolo decisivo della Lega Nord, infatti il titolo della Padania va esattamente in questa direzione oggi, capaci di vincere, e Massimo Franco evidenzia appunto la soddisfazione del Carroccio sia con riferimento al risultato del referendum sia anche con riferimento ai risultati delle amministrative. E da questo punto di vista c'è una evidenza che Franco mette in luce, ed è quella di quanto la Lega riuscirà a incidere sul programma di governo dei prossimi 12 mesi. Accanto al risultato della Lega viene evidenziato sia nell'articolo di Massimo Franco che poi in un approfondimento nel primo piano del Corriere della Sera, un risultato che anche solo pochi mesi fa sarebbe stato giudicato impossibile da parte dell'UDC, che evidenzia appunto una tenuta molto forte e un ruolo decisivo per gli apparentamenti a geometrie variabili che sono stati realizzati dal partito di Casini appunto nell'indirizzare il voto finale sui ballottaggi. Che ci sia un'area di chiarimento interno alla maggioranza lo evidenzia un'intervista di Fabio Poletti sulla Stampa al ministro Calderoli. Volevano fermarci, la Lega ci ha travolti, adesso, dopo che siamo stati decisivi, chiederemo 3 regioni del nord e ce le devono dare. Il Sole 24 Ore insiste appunto su un referendum mai così freddo e sul risultato al filo di lana per Milano, dove Podestà del PDL ha battuto appunto per circa 3.000 voti Penati del PD. L'approfondimento di Stefano Folli evidenzia appunto da un lato i dilemmi politici del Partito Democratico, che in alcuni casi non è stato capace di definire un messaggio univoco nei confronti del proprio elettorato, e dall'altro lato di nuovo anche da parte di Folli una evidenziazione del ruolo di UDC e Lega, ma anche un'evidenziazione di una penetrazione progressiva, graduale, anche se resa meno visibile da astensionismo e da un risultato meno positivo delle attese, quindi dicevo una penetrazione graduale sul territorio da parte del PDL. Passando invece all'esito della tornata referendaria, è l'approfondimento di Roberto Dalimonte a evidenziare alcune delle ragioni del mancato successo del quesito referendario e dall'altro lato invece ad evidenziare aspetti che rimangono critici e che dovranno essere rivisti con riferimento alla legge elettorale. Dalimonte evidenzia che l'insuccesso del referendum porta alla luce un improprio utilizzo dello strumento che è stato utilizzato per far rispondere ai cittadini a quesiti che Dalimonte definisce astrusi e complessi e quindi richiama l'importanza di un utilizzo appropriato dell'istituto referendario, ma Dalimonte insiste anche sul merito del referendum e sostanzialmente porta all'attenzione quella tensione storica che caratterizza il nostro sistema politico tra una tensione verso la governabilità e una tensione invece verso la pluralità che qualche volta si traduce in frammentazione. Certamente che il mancato raggiungimento del quorum lascia il meccanismo elettorale vigente intatto e pertanto partiti affini, come evidenzia Dalimonte, potranno ancora coalizzarsi per vincere e il premio di governo sarà e governare sarà più difficile per un unico partito che non sia inserito in una coalizione. Tuttavia Dalimonte evidenzia anche la necessità di correggere in futuro la mancanza delle preferenze e la lotteria del Senato con premi regionali come punti che, unitamente alla possibilità di candidature plurime e a soglie di sbarramento scontate, dovranno essere modificati per il futuro. Chiudendo questa pagina ampia riferita ai quesiti referendari e alla tornata amministrativa, sono le questioni economiche insieme a quelle geopolitiche che occupano uno spazio consistente sui quotidiani di oggi. Da un lato il richiamo di Trichet a una possibile turbolenza sui mercati finanziari e una conseguente instabilità sui principali mercati borsistici internazionali. Dall'altro lato invece un'analisi che è stata fatta da Eurostat sul fisco nel vecchio continente, che ad esempio occupa sia le pagine dell'economia del Corriere e di Repubblica, sia gli approfondimenti di Stampa, Messaggero, sul record sull'Italia maglia nera per quanto riguarda le tasse sul lavoro. Il fisco prende 44 euro su 100, mentre la media europea è ferma a 34. E sono appunto su Stampa, Messaggero, Sole 24 Ore, Repubblica e Corriere alcuni degli approfondimenti su questo tema. In sostanza, come si evidenzia ad esempio in un ampio servizio sulla Stampa, ci sono delle anomalie, dei punti di unicità dell'Italia, che è l'unico paese dell'Unione a essere caratterizzato contemporaneamente da un elevato cuneo fiscale e contributivo, da un'elevata quindi pressione complessiva sul lavoro, da un basso costo del lavoro, tuttavia, e da una bassa produttività del lavoro. E cosa importante, sottolineata ad esempio dal Messaggero, quando andiamo ad analizzare questo cuneo fiscale e contributivo, scopriamo che una quota significativa, pari circa all'80% del cuneo, è in realtà spiegata dai contributi al sistema pensionistico pubblico. Due le indicazioni di policy che sembrano emergere da varie interviste sui principali quotidiani ad economisti e ad esperti. La prima è quella di pensare alla riforma del sistema pensionistico, allo sviluppo di un pilastro complementare, all'innalzamento dell'età pensionabile, anche nella prospettiva di una riduzione del cuneo fiscale e contributivo. La seconda è quella di avere la forza, anche in un momento difficile come questo, di ricorrere alla contrattazione decentrata per avere una più ampia differenziazione del costo del lavoro su base territoriale, perché un altro dato che emerge è quello della contenuta differenziazione del costo del lavoro all'interno delle regioni del nostro paese, che invece non è bilanciata da un'analoga contrazione e riduzione delle differenze di produttività. In altre parole, abbiamo forti differenze di produttività e invece basse differenze di costo del lavoro. Quindi contrattazione decentrata e riforma pensionistica. Il richiamo di Emma Marcegaglia, intervistata da Emilio Bollicelli a Parma sul Sole 24 Ore, è quello appunto di andare, di introdurre un intervento a medio termine per ridurre la pressione fiscale e quindi per la detassazione degli utili reinvestiti, ad esempio, e anche per un nuovo scudo per i capitali. Sempre sul Sole 24 Ore si apre, a seguito dell'Assemblea degli Industriali di Reggio Emilia, un punto che poi invece viene ripreso anche dall'intervista di Roberto Mania a Corrado Passera su Repubblica. Il punto è quello, da un lato, di un sistema di piccole imprese che chiede di allentare i vincoli di Basilea 2 per sbloccare il credito, e dall'altro lato l'intervista all'amministratore delegato di Intesa che sottolinea: abbiamo decine di miliardi, aspettiamo buone idee, e quindi che rimanda la palla dell'incaglio del credito alla difficoltà da parte dei grandi istituti bancari di identificare buone idee da finanziare. Continua quindi la tensione tra imprese e sistema bancario. Dicevamo manovra economica e analisi della situazione del nostro sistema industriale come punti di approfondimento. Un esteso articolo di Stefano Feltri su Il Riformista fa il punto su scudo fiscale, su bonus assunzioni e su prospettive di reintroduzione della detassazione per gli utili reinvestiti, e quindi approfondisce ed analizza la manovra che si sta preparando per il Consiglio dei Ministri di venerdì, di cui si iniziano a definire i contorni. Tre i punti fondamentali di intervento che si starebbero preparando: da un lato la reintroduzione di una misura di scudo fiscale che consentirebbe di rimpatriare capitali esportati all'estero; da un altro lato il premio alle imprese che non licenziano, che sarà presentato dal ministro del welfare Maurizio Sacconi; e infine appunto la proposta di detassazione degli utili reinvestiti per le imprese. Quindi una misura che fa seguito alla misura che fu presa pochi mesi fa con il decreto di fine anno a sostegno delle famiglie, evidenzia Feltri, e alla misura di inizio 2009 per i settori industriali in crisi. In questo caso, sottolinea Il Riformista, il governo prova a dare una scossa al sistema economico prima dell'estate. C'è un richiamo in questo approfondimento all'esigenza anche di pensare a misure strutturali nel medio-lungo periodo. In particolare si richiama l'intervento di qualche settimana fa del governatore Draghi, che poi è stato ripreso anche ieri dallo stesso Draghi: mai come ai nostri tempi il potenziale di crescita di un paese avanzato è dipeso dalle conoscenze e dalle competenze dei suoi abitanti. E per tornare a crescere bisogna reinvestire in questa direzione, sottolinea Draghi. Un punto di complessità è delicato, è evidenziato ancora in questo approfondimento di Feltri, ed è quello che l'aliquota per un'ipotetica misura di reintroduzione all'interno del paese di capitali che in questo momento sono depositati in conti in Svizzera o in Lussemburgo dovrebbe poter muovere un importo di circa 150 miliardi se l'aliquota sarà compresa tra il 4 e l'8%. Ma il clima culturale è molto cambiato negli ultimi tempi ed è chiaro che nel momento in cui a livello internazionale si combattono i paradisi fiscali, questa misura dovrà essere disegnata con attenzione e tuttavia costituisce una delle principali linee per reimmettere liquidità. Un lungo approfondimento di Giuliano Cazzola, sempre sul Riformista, entra su proposte di riforma delle indennità di disoccupazione e di mobilità che vanno dall'abolizione del requisito assicurativo e dell'indennità per i parasubordinati a uno schema di disoccupazione generalizzato e infine a un'articolazione del sistema di mantenimento del reddito. Una proposta articolata, quella di Cazzola, che meriterà di essere ripresa nella discussione dei prossimi giorni. Un punto dolente del nostro paese è richiamato da un evento che si è verificato ieri a Prato, un incidente ferroviario che ha spezzato in due il paese. Repubblica presenta un dossier infrastrutture ferroviarie, 3 incidenti in 20 giorni e allarme sicurezza. Carrozze vecchie, incognita manutenzione, d'ora in poi un solo macchinista a bordo. Il punto infrastrutture viene ripreso poi sia dal Sole 24 Ore nei commenti, il titolo è Grandi opere o piccola Italia, proprio perché cittadini e imprese sono stanchi di aspettare la risoluzione di questo deficit infrastrutturale, e poi c'è un'intervista a Luciano Violante sul Corriere della Sera di Dino Martirano che richiama questa associazione Italia Decide, a cui partecipano Carlo Azeglio Ciampi, Giuliano Amato, Gianfranco Fini, Giulio Tremonti, Luciano Violante e altri esponenti politici e gran commio accademici. La fondazione presenterà il 2 luglio davanti al Presidente della Repubblica un rapporto proprio sulle infrastrutture che, sottolinea l'intervista, analizzerà in dettaglio i grovigli normativi e burocratici che devono essere rimossi per sbloccare anche, ad esempio, 16 miliardi di euro bloccati per le infrastrutture e disponibili per le infrastrutture, ma bloccati per le più disparate ragioni burocratiche. Un altro punto dolente del nostro sistema economico, scuola ed educazione, è l'oggetto di un articolo duro di Andrea Ichino sul Sole 24 Ore che sottolinea la mancata adozione di misure per la valutazione degli istituti e per il monitoraggio dell'attività formativa degli allievi e per la riforma del sistema dell'esame di maturità all'interno del nostro sistema scolastico. Ancora lontana l'introduzione di un sistema di valutazione e incentivazione di scuole ed insegnanti, evidenzia Ichino, e sottolinea come sia necessaria una misura in questa direzione. L'articolo di Guido Gentili, torna di moda il capitalismo made in Italy, sempre sul Sole 24 Ore, evidenzia questa ambivalenza delle partecipazioni azionarie incrociate, dei meccanismi di stabilizzazione e di coordinamento interni al nostro sistema bancario e industriale, che da un lato hanno in qualche modo ostacolato nel tempo processi di esplorazione di nuove opportunità tecnologiche, ma poi si sono rivelati un potente meccanismo di stabilizzazione nelle fasi di crisi. Devo dire che conforta la foto in prima pagina sul Sole 24 Ore con Sarko e Carlà che lanciano un saluto durante l'intervento che ieri Nicolas Sarkozy ha tenuto davanti al Parlamento riunito in congresso nella Reggia di Versailles. E il Foglio dedica un approfondimento a questo tema. Sarkozy sfrutta la ritrovata popolarità per rilancio e reimpasto di governo. E dal 1875 non accadeva che il presidente francese parlasse davanti al Parlamento riunito, Sarkozy è intervenuto con grande solennità e ripristinando quindi sia il proprio ruolo personale, sia quello dell'UMP, ma sia il ruolo istituzionale che gli compete, parlando a tutto tondo di religione e sottolineando come il burqa non debba essere visto come un segno religioso, ma come un segno di sottomissione delle donne non gradito, e poi intervenendo sulle misure economiche per la ripresa, sia con riferimento agli ammortizzatori sociali, sia con riferimento ai 26 miliardi di euro stanziati. Quello che vi propongo è il cambiamento, dobbiamo avere il coraggio di cambiare. E non è solo la foto su Il Sole 24 Ore, da questo punto di vista, a lasciarci con un po' di amaro in bocca. Buona giornata e la linea ad Alessandro Milan.